Il suicidio dell'uomo falena. Marco alla chitarra. Stefano alla batteria. Porchi al basso e Cisco alla chitarra. Allora, prima di tutto oggi vorrei fare il compleanno a un ragazzo che è tra noi, che oggi fa 15 anni e lo conoscete tutti quanti. A meno che non siate come me che fanno i posti e si dimentica di esserci stato. Oggi compie 15 anni il Tippio! Gesù Cristo banana! E facciamogli tanti auguri. E che cazzo? Loro sono il suicidio dell'uomo falena, oh. Anche io. Che cazzo? Adesso ci schiantiamo di brutto, vai. Cin cin. Tanti auguri al TPO. Creative Commons. Sottosuono Lab. La mia parte è sensibile, con tanto limite mi lascio vivere. C'è il continente l'invisibile, la mia parte è sensibile. omicidio dell'uomo falena, TPO sottosuono lab, 15 anni.